Allora, rieccoci in diretta, ritornati in voce. Dunque, domani sera la campagna 10% scenderà in piazza, dunque un concerto che si propone chiaramente di rilanciare i temi su cui stiamo dibattendo anche noi qui questa mattina. È chiaramente una presa di posizione importante da parte della cultura, degli artisti, di gruppi musicali su questa vicenda, in attesa appunto di capire che decisioni prenderà la Cassazione. Dunque Genova non è finita, e a dirlo saranno anche i 99 Posse, Teatro Valle Occupato, Javier Girotto, Adriano Bono, Rosso Malpelo, Fancallisto, Vogiaggia e più, insomma, varie incursioni del coordinamento degli artisti di strada. Noi siamo felici di stare in collegamento telefonico con Marco Messina dei 99 Posse. Ciao Marco, buongiorno. Ciao a tutti. Allora ciao, Marco, domani a partire dalle 18:30 a Roma in Piazza Trilussa ci sarete anche voi. Insomma, domanda un po' semplice, banale forse, ma ecco, vorremmo sentire dalla tua voce quali sono i motivi, insomma, che vi hanno spinto ad aderire e a dare il vostro contributo, un contributo così essenziale a questa campagna. Forse non ci sarebbe neanche tanto bisogno di dirlo, visto che il vostro gruppo da anni, insomma, è uno dei più... Ma guarda, io di verità, in realtà noi abbiamo scoperto che in questi tempi di grande confusione, purtroppo molto spesso è utile ribadire delle cose che magari per noi sono delle ovvietà. Per cui rispondo alla tua domanda con grande piacere. Noi abbiamo aderito principalmente perché eravamo a Genova nel 2001 e abbiamo visto quello che è successo, quindi non è che ci sono arrivate notizie di seconda mano, abbiamo potuto credere a qualche balla mediatica che è stata, diciamo, messa in piedi dal 2001 ad oggi. E in più aderiamo perché ci sembra assurdo, a prescindere dalla nostra posizione politica, le lotte non si processano, ma al di là, anche da cittadini, da società civile, ci sembra assurdo che in un paese appunto civile, non una dittatura, un poliziotto che ammazza di botte un ragazzo tra la condizionale, l'indulto eccetera eccetera, viene condannato a 6 mesi, e un ragazzo che ha una manifestazione pare che abbia rotto una vetrina si prende 10 anni. Diciamo, questo è... sono le motivazioni per le quali abbiamo aderito con gran piacere a questa iniziativa. Certo, e insomma essenziale, no? Che quando si prova a costruire un po' di solidarietà ci sia anche la partecipazione di personaggi così di richiamo, insomma, proprio perché è importante che ci siano anche loro ad alimentare e a diffondere un pensiero critico non soltanto sui grandi temi della politica e dell'economia, ma anche sulla repressione che si abbatte su coloro i quali provano a dissentire rispetto alle scelte intraprese, insomma, all'interno di queste sfere. Che poi tra l'altro l'ironia della sorte è che io in questo periodo di crisi economica, qualche volta che mi è capitato di sentire qualche talk show, qualche cosa, io ho sentito personaggi come Feltri criticare la globalizzazione utilizzando le stesse argomentazioni che i no global nel 2001 dicevano, insomma, per criticare la globalizzazione, ovviamente da angolazioni, da punti di vista diversi. Però alla fine quello che diceva, probabilmente se i potenti della terra ci avessero dato ascolto nel 2001, oggi la crisi, non dico che non ci sarebbe, ma sarebbe meno pesante. Ecco, questo non so se ci deve iniziare a far preoccupare, a dire il vero, più che a consolarci, Marco. No, vabbè, diciamo che no, secondo me ci dovrebbe consolare, anche perché le cose che noi dicevamo, cioè il fatto che è assurdo consentire la circolazione delle merci in un mondo in cui ci sono paesi dove gli operai guadagnano 2 euro l'ora, $2 al giorno, cioè magari dal punto di vista capitalistico il motivo è che poi ti hanno rovinato il mercato, dal punto di vista nostro era un discorso di uguaglianza sociale, ma il risultato è sempre stato lo stesso, diciamo. Certo. Cioè, che la gente continua a essere sfruttata e che gli operai, la gente che lavora, l'industria italiana è in crisi perché ovviamente non puoi reggere non potrai mai, anche se riduci i diritti, riduci gli stipendi, non potrai mai arrivare a essere competitivo con un operaio, con una fabbrica coreana o cinese. Questo, diciamo così, non ci voleva un premio Nobel per capirlo. Senti, dato che insomma voi poi non vi fate mancare niente, avete, mi piace sottolineare questo aspetto, perché insomma ricordo con piacere delle vostre dichiarazioni davvero probide, soprattutto dal punto di vista della tempistica, perché avete bruciato fior fior di centri sociali con comunicati che sono usciti chiaramente numerosi nelle settimane successive, ma nei giorni proprio immediatamente successivi al 15 ottobre, beh, insomma, siete stati tra i pochi a squarciare un po' quel velo di silenzio. Ora, io non voglio banalizzare, insomma, le vostre dichiarazioni, perché c'erano anche, ricordo bene, dei motivi seri di riflessione rispetto all'organizzazione che aveva preceduto quella giornata e ai limiti organizzativi di quella giornata. Però poi essenzialmente c'era una cosa importante, no? E cioè, è inutile disperarsi per i SUV che vanno in fiamme, sintetizzando estremamente, preoccupiamoci di chi non riesce a trovare un lavoro e di chi non riesce a tirare avanti fino a fine mese o di chi perde il lavoro, no? Era questo un po' il ragionamento. Sì, allora, innanzitutto la cosa è stata tempestiva, perché noi il 15 ottobre, alcuni di noi, tra cui eravamo lì, quindi abbiamo visto quello che è successo. Non avevamo partecipato per ovvi motivi alle riunioni organizzative. La cosa che ci fece stare male era in generale tutto questo cianciare su una vetrina o su un SUV brutto, insomma, che comunque mi ci sembrava. Tra l'altro, insomma, io da un po' di tempo sto spesso a Roma e quindi conosco, tra l'altro, il supermercato Litta via Cavour. Una volta mi è capitato anche di entrare, 4,50 € un chilo di pane, ecco. Insomma, chiariamo le cose, insomma, tant'è che adesso ci hanno messo le saracinesche di ferro per evitare in futuro brutte sorprese, e non mi sembra, insomma, che abbiano avuto grandi danni. Ma al di là della cosa, il problema è molto semplice, che secondo me lì in quel giorno non si è saputo gestire e controllare una rabbia popolare. Cioè, noi a differenza di altre volte, lì si respirava nell'aria che c'era qualcosa di non organizzato, c'era tanta voglia da parte della gente di emulare quello che era successo quasi un anno prima a Roma, sempre. Parlo del 14 dicembre, no? Sì. E quindi, diciamo, secondo me non si è riuscito a gestire, a convogliare, o non si è potuto gestire e convogliare questa rabbia nel modo giusto. Però comunque secondo me e secondo noi è assurdo che ci siano delle persone che comunque stanno pagando anche loro con la galera una giornata che comunque è stata una bella giornata di lotta, con diciamo con i suoi problemi, con le sue anche con i suoi sbagli, perché comunque io ho visto fare delle stronzate, cioè non però secondo me un conto è dircelo così anche a un microfono della radio, e un conto è dissociarsi, che è un termine, diciamo, che dovrebbe essere lontano dalla nostra cultura a prescindere, sempre e comunque. È come non essere d'accordo con te, è come anche non condividere proprio, insomma, un moto di rabbia, insomma, rispetto al fatto che non ci si può poi disperare più di tanto se va in frantumi una vetrina. Certo, da par loro, lor signori, insomma, avranno i loro incubi, ma dare anni di galera per il danneggiamento della proprietà privata, insomma, pensiamo sia totalmente irragionevole, a fronte del fatto che poi, insomma, le nefandezze compiute dagli uomini in divisa molto spesso passano impunite. Ecco, questo è anche il discorso. Sì, ma tra l'altro io mi ricordo di una cosa anche molto, diciamo così, che dovrebbe far riflettere. Quando c'è stato l'episodio del cellulare dato alle fiamme, cioè, sembra che quel carabiniere sia scappato miracolosamente. Io non credo che una persona circondata da centinaia di persone facilmente, diciamo così, con una divisa nera, quindi lo vedi immediatamente con carabiniere, scappa miracolosamente. Scappa perché lo fanno scappare, questa è una cosa che secondo me è stata forse la cosa più squallida che hanno fatto i media sul 15 ottobre, cioè far vedere come se questo carabiniere fosse riuscito a scappare miracolosamente da un linciaggio fatto da queste orde di barbari che avevano invaso Roma. Il carabiniere è scappato perché è stato fatto scappare, perché noi siamo esseri umani, non siamo bestie, ce la possiamo prendere con un oggetto, non con una persona, per cui anche se quello era un carabiniere nessuno ha cercato di rompergli la testa, insomma. Senti Marco, allora domani sera insieme a tanti altri artisti cosa farete, insomma? Ma guarda, noi siccome siamo in tour e tra l'altro Luca in questo periodo non c'è, si era preso già da tempo una settimana di meritato riposo, insomma, per vicende sue eccetera eccetera, verremo io, Massimo il bassista e il DJ set, quindi metteremo un po' di musica e faremo ballare e pensare la gente, diciamo così, richiamando un titolo di un nostro vecchio brano. Perfetto, allora grazie per le tue parole, grazie per il tuo intervento e ci si vede domani sera. Passare per via dei Volsci è sempre bello. Bene, allora ti aspettiamo in radio allora domani. Ciao Marco, ciao, ciao, a domani. Ciao, ciao, ciao.